La dominante di queste elezioni per ciò che riguarda la regione est europea è stata proprio la bassa affluenza alle urne. Tra l'altro bisogna anche considerare che non si tratta di un fenomeno nuovo nell'area, mi riferisco al periodo successivo alla caduta, al crollo dei regimi. Effettivamente poi si trattava anche di una situazione prevista, di una situazione che era stata prevista dagli osservatori alla vigilia del voto. E questo fenomeno ha riguardato in modo particolare alcuni paesi come la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia. Effettivamente si può parlare di una certa indifferenza verso il Parlamento europeo, che evidentemente è giudicato dai più troppo lontano dalla realtà quotidiana, insomma, degli stati dell'allargamento e dei problemi, insomma, che vivono ogni giorno i cittadini di questi paesi. E poi direi che c'è stato anche un po' il sentore che il voto non potesse influire sulla situazione interna, così che si è registrata una media di circa il 25%, cioè si calcola che 3 elettori su 4 siano rimasti a casa. Anche l'ex presidente polacco Lech Wałęsa, recandosi alle urne a Danzica, ha detto che questo voto per il rinnovo del Parlamento europeo non costituisce un grande avvenimento, un avvenimento particolarmente importante, ed effettivamente un po' la frase che riassume lo stato d'animo vissuto in questi giorni nei paesi dell'allargamento. L'altro aspetto da prendere in considerazione è quello del voto di protesta nei confronti dei governi in carica nei paesi della regione. E questo però non vuol dire che abbiano vinto, che abbiano prevalso soprattutto formazioni anti-europeiste. Infatti hanno avuto successo anche partiti che hanno appoggiato l'adesione all'Unione Europea, ma l'hanno fatto dai banchi dell'opposizione, con atteggiamenti politici diversi da quelli dei partiti governativi. Un esempio è quello dell'Ungheria, che ha visto prevalere la Federazione dei Giovani Democratici, la Fidesz, un partito conservatore al governo nella passata legislatura, che ha ottenuto 12 seggi contro i 9 dei socialisti. È un partito che ha appoggiato l'adesione all'Unione Europea, ma l'ha fatto con un atteggiamento, diciamo, anche di maggior critica nei confronti dell'Unione Europea e con una disponibilità minore per ciò che riguarda i compromessi. I socialisti negli ultimi tempi hanno visto diminuire la loro popolarità per una serie di motivi, per le promesse non mantenute e anche per le misure restrittive che sono state prese dopo la crisi monetaria, la crisi valutaria che si è verificata in Ungheria alla fine dell'anno scorso, crisi che ha portato alla sostituzione del Ministro delle Finanze e poi anche a far saltare il termine del 2008 per l'adozione della moneta unica. Anche in Polonia è prevalso un partito dell'opposizione, la Piattaforma Civica. Si tratta di una formazione politica della destra moderata che non è anti-europeista. Al secondo posto poi si è piazzato Samobrona, il partito dell'autodifesa, partito contadino guidato da Andrzej Leper. Questo partito viene considerato anti-europeista, ma il suo leader dice che non è vero, che le cose non stanno così, che casomai bisognerebbe rinegoziare le condizioni per l'adesione del paese all'Unione Europea. E i socialisti sono arrivati soltanto quinti. Adesso, tra l'altro, il Presidente della Repubblica Kwaśniewski deve rinominare il candidato che sarà con tutta probabilità Marek Belka, quel Marek Belka che non ha attualmente la fiducia, diciamo, del Parlamento. Pure nella Repubblica Ceca hanno prevalso i conservatori sui socialdemocratici che guidano il governo, e quindi questa è un po' la situazione che si è delineata in questa regione. Direi che il voto che è stato espresso lo scorso fine settimana non è stato un voto dato, diciamo, con una prospettiva europea, diciamo, con preoccupazioni particolari rispetto al Parlamento europeo e al futuro, insomma, del Parlamento europeo. Direi che gli elettori, quelli che sono andati a votare, direi che ne hanno approfittato proprio per esprimere un voto di critica nei confronti dei governi attualmente al potere, attualmente in carica nei loro paesi.